Storiacce di Raffaella Calandra. È successo di nuovo, e di nuovo tutti, ancora più turbati ma forse pure rassegnati, ci interroghiamo ora davanti all'ultima strage. Ora sono i colori del Belgio a colorare i monumenti di mezzo mondo. Ora è il nome di Bruxelles ad essere scandito in improvvisati cori di piazza, a comparire nelle scritte lasciate coi gessetti su muri e strade. Ora è nel cuore della capitale d'Europa che il califfato ha portato la sua guerra, dopo averlo fatto già due volte a Parigi l'anno scorso, ripetutamente in Turchia e dopo che altre cellule terroristiche di differenti galassie avevano già insanguinato in passato Madrid e poi Londra. Ma come in un enorme déjà vu, di nuovo emergono i buchi nella rete dell'intelligence, di nuovo si denunciano gli errori e le riforme mai fatte, di nuovo si allunga l'ombra della rete europea jihadista. Con quali conseguenze anche nella vita di tutti noi? Com'è la vita ai tempi del terrorismo? Con questa domanda parte una nuova puntata di Storiacce. Commentatela con noi se volete alla 349 238 6666, anche con messaggio WhatsApp, o sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece Raf Calandra. Cambiato i programmi no, e cambiato il modo di vivere no, però sicuramente è un pensiero che non lascia tranquilli. Tutta questa sicurezza fa piacere, però dall'altra parte non è un bel vivere. No, l'unica cosa su cui magari andrebbe aumentata un po' la sicurezza sono i treni. La gente c'ha paura della metro e ha cambiato proprio i percorsi. Viaggio con il treno e a Termini ho paura, sinceramente. Trovasse i militari in metro comunque fa una minima impressione, va un po' inquietante, però io già onestamente sento un po' di meno la cosa. Sarà che purtroppo siamo talmente anche un po' abituati. Tanta, tanta paura. Onestamente sì, a me questa cosa mi limita molto e non è molto bello essere limitati nella libertà. Forse ci viviamo già e non lo ammettiamo o non vogliamo riconoscerlo. Forse la nostra è già una vita ai tempi del terrorismo, quando si cambiano le abitudini nel prendere i treni, nell'evitare le piazze più simboliche, quando un'incertezza inconscia e inconfessabile ci accompagna ora negli spostamenti per le ferie pasquali o prima nelle code di Natale o in mezzo a qualunque folla. È proprio questo senso di incertezza già il segno di una vita nell'era del terrorismo? Fonti di sicurezza irachene ed europee ci informano che un esercito di jihadisti è già in Europa, addestrati nelle trincee di Daesh e rispediti nel vecchio continente con una missione precisa: portare qui la guerra. 400 famigerati foreign fighters sarebbero già rientrati e sparsi in più paesi, da Francia, Germania, Belgio, Danimarca e pure Italia, ma il numero è ben diverso da paese a paese ed è proporzionato al numero di partenza, analizza Renzo Guolo, professore di sociologia delle religioni a Trieste, Padova e Torino. Dal 2011 ad oggi ci sono stati 5.000 circa foreign fighters europei, non solo i paesi dell'Unione ma anche per esempio l'area dei Balcani, e sono tornati, si stima, tra gli 800 e i 1.000, con ovviamente in proporzione alla appunto popolazione di foreign fighters di ogni paese, per cui noi abbiamo classicamente che Francia, Gran Bretagna, Germania e Belgio sono i paesi che hanno più esportato foreign fighters e quindi hanno anche più foreign fighters di ritorno. Non è automatico che diventi jihadista, ma diciamo che la probabilità è abbastanza elevata. Quindi tra 800 e 1.000 persone presunti, possibili, diciamo, certo, jihadisti, che potrebbero essere già rientrati in Europa, ciascuno nei propri paesi di origine, di partenza. Quello che si sa è questo, poi c'è una quota che si può spostare da un'area all'altra. Non tutti tornano, anche perché le perdite sono state molto elevate, soprattutto nell'ultimo anno. Però quelli che tornano, tornano addestrati. Informazioni di intelligence parlano di cellule interconnesse nei vari paesi di Europa. La connessione è data dal fatto appunto che spesso queste persone che si sono conosciute in aree di combattimento mantengono una serie di contatti, si è visto nel caso della cellula franco-belga. Cosa si può dire sulla eventuale cellula di jihadisti italiani? foreign fighters italiani sono circa 90, dico italiani intesi cittadini italiani ma anche residenti nel territorio nazionale, che poi sono partiti per la Siria in particolare. 90 quelli partiti dall'Italia, 90, ma di rientro? Circa una decina. Ovviamente bisogna capire se queste persone sono rimaste, come dire, saldamente ancorate sull'ideologia. Certo, ci sono stati anche i pentiti del jihadismo. Come no? Ecco, noi abbiamo una situazione diversa perché abbiamo un modello urbano ed economico e una storia coloniale anche molto differente. Guardi, questa è la storia coloniale, un elemento molto sottovalutato. Noi pensiamo che siano cose orpelli del passato, ma per esempio nella situazione francese, nella situazione britannica, questo è l'elemento che conta molto quando gli immaginari si radicalizzano in un senso o nell'altro. L'eredità della storia che in qualche modo pesa, diciamo, certo, nel... La storia è come un fiume carsico, insomma, si inabissa ma poi riemerge. La grande rottura generazionale tra i figli radicalizzati e i padri, per esempio, avviene anche su questo punto. Di sicuro e da tempo è stato registrato il passaggio anche nei nostri confini dell'ex super ricercato di Parigi, Abdeslam Salah, di sicuro in Puglia. Ma perché qui poteva contare su una rete quantomeno di sostegno? E anche questa una delle cellule interconnesse di jihadisti su cui le intelligence di mezzo mondo mettono in allarme? Quello che è possibile dire è che le indagini italiane, alcune delle quali coordinate dal procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo, hanno già confermato contatti dall'Italia col Belgio, la Francia e la Norvegia. Una sistematica organizzazione che prevede una serie di gruppi collegati, noi non possiamo dirlo, trasferimenti di notizie, ausili di carattere eversivo, cioè traffico di armi, di esplosivi, qualcosa del genere, possiamo quantomeno ipotizzarlo, anche se non affermarlo. Quindi un reciproco supporto, questo in qualche modo è quello che le indagini fin qui ci permettono di dire. Un reciproco supporto che nel caso dell'organizzazione messa a nudo nell'indagine romana era sistematica rispetto al proprio gruppo, cioè era si disperso per l'Europa e in Italia aveva delle basi nel nord-est. Altri gruppi li abbiamo individuati come indagine di Roma, però la situazione italiana non è certamente uguale a quella di altri paesi europei. Si calcola che su una novantina di possibili foreign fighters partiti dall'Italia, una decina più o meno potrebbero essere ritornati, quindi cifre ben diverse rispetto a quelle della Francia e del Belgio. Nello scenario italiano è completamente diverso, sia sul piano sociopolitico sia sul piano della strategia che persegue l'ISIS in questo momento. Certo, però l'Italia resta il paese simbolo soprattutto della cristianità. Beh, l'Italia non soltanto fa parte dell'Europa, ma nell'Europa è, come dire, il ponte verso l'Africa e verso il Medio Oriente, la culla della cristianità, e quindi indubbiamente ha un valore simbolico molto forte. Tutti questi elementi possono farci dire che dobbiamo guardare con estrema attenzione al nostro futuro. Ecco, procuratore, voi avete in qualche modo anche dovuto, diciamo così, approfondire i dati riguardanti la presenza nel nostro territorio anche dell'ormai ex, per fortuna, super ricercato per le stragi di Parigi, Abdeslam Salah. Il suo passaggio in Italia in qualche modo ci permette di dire che potesse contare su un possibile appoggio logistico? Naturalmente l'Italia è un punto di passaggio e non può escludersi che ci sia qualche riferimento, semmai anche del tutto episodico, cioè non strutturato, di cui Salah oppure altri personaggi che fanno parte di questi gruppi che hanno svolto delle azioni in Europa che hanno soffrito. Cioè non è possibile dire che ci fosse una cellula di contatto, però in qualche modo non si può escludere che ci fosse quantomeno qualcuno che conoscesse. No, non diciamo. Si può escludere, ma quello che occorre comprendere è che il fenomeno dell'aggressione è all'intera cultura europea, il fenomeno dell'aggressione è ai valori della nostra civiltà, quindi l'Italia sotto questo profilo ha comunque ai paesi che sono stati vittime di gravi attentati come la Francia e il Belgio ultimamente, in precedenza la Spagna o l'Inghilterra. Questo arriva già dopo, le indagini arrivano dopo le stragi, dopo gli attentati, dopo i civili ammazzati, quando cioè tutto è stato già commesso e quindi la prevenzione non è bastata. Eppure anche stavolta gli attentatori di Bruxelles erano già noti alla polizia belga, arrestato e rilasciato almeno uno, eppure anche stavolta, come già a Parigi, gli allarmi erano stati diffusi prima, precisi e dettagliati. Eppure, anche stavolta, hanno potuto portare a termine il loro piano gli attentatori e ora minacciano ancora, soprattutto Londra. Ebbene, nonostante tutto questo, ancora non esiste un'intelligence comune europea. Eppure, nonostante tutto questo, molti paesi ancora sono restii a condividere informazioni e dati fondamentali, nonostante i morti. Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Très rapidement, à 7h58, 37 secondes, une seconde explosion a été déclenchée à hauteur de la rangée 2. Une photo montrant les trois suspects. Praticamente il Belgio li conosceva già, praticamente tutti. Era stato avvisato della pericolosità di alcuni e aveva pure già ricevuto un'allerta su un rischio attentati negli aeroporti e nella metropolitana, esattamente cioè come poi è avvenuto martedì 22 marzo, uccidendo 32 persone, ferendone altre 300, come il procuratore Van Leu ricostruirà con voce grave davanti a tutto il mondo. Già sapeva cioè Bruxelles, con le sue frammentazioni interne e i suoi mille apparati, pure del covo di Abdeslam Salah, il super ricercato di Parigi poi arrestato, così come alla fine nella capitale d'Europa sono stati costretti ad ammettere che effettivamente sì, l'ambasciatore belga d'Ankara era stato avvisato del rientro di un personaggio pericoloso, come denuncia il premier turco Tayyip Erdogan. Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer bakanlar, saygıdeğer heyet üyeleri. Eppure tutto ciò non è bastato. L'ennesimo attentato si è consumato e ora pure le nostre vite fanno i conti con i controlli rafforzati alle stazioni, dove si formano le code, proprio come ai check-in negli aeroporti, fanno i conti con le forze dell'ordine più evidenti nelle strade di tutte le nostre città, con quel misto di rassegnazione e fatalismo con cui ormai ci siamo abituati, diciamocelo, almeno nelle grandi città, a convivere. Continuando ad andare al cinema, certo, a sentire concerti, a prendere treni o aerei, ma forse con un po' meno di serenità di prima. E forse tutto questo continua a ripetersi anche per la mancanza di circolazione di notizie tra apparati di diversi paesi. Eppure, dopo ogni strage, tutti, ma proprio tutti, concordano sulla necessità di accelerare sull'intelligence europea, come l'Italia di fatto, forse da sola, nel concreto già fa, denuncia il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti. Mi fa piacere che sia stato posto questo tema, finalmente, sia pure in questa fase di assoluta emergenza. Era ora, perché vi è necessità di una maggiore completezza e circolazione delle informazioni, vi è necessità di uno scambio informativo costante fra gli organi di intelligence e gli organi di polizia europei. Se tutto ciò si realizza, e non è impossibile realizzarlo anche in tempi ragionevolmente brevi, è una cosa estremamente importante. Ecco, nel concreto, dal punto di vista investigativo, per voi che cosa rappresenterebbe l'introduzione e l'esistenza di un'unica intelligence europea? Più, diciamo, si hanno informazioni, più, diciamo, queste informazioni circolano in modo tempestivo, più è facile prevenire. Siete tra quelli che più premono in questa direzione, però serve anche la collaborazione degli altri paesi e le istituzioni fin qui esistenti come Eurojust evidentemente non sono sufficienti visto quello che continua a succedere. L'Italia sta dando un grande contributo proprio perché noi italiani abbiamo la cultura del coordinamento investigativo e giudiziario, forse in misura maggiore di altri paesi. Ora sarebbe importante creare una intelligence europea e di polizia giudiziaria che già c'è peraltro, si chiama Europol, va fatto funzionare nel modo migliore. Poi c'è più sullo sfondo la figura del procuratore europeo che sta avendo nella sua costruzione un percorso piuttosto accidentato perché non c'è accordo sul disegno di procuratore europeo. Colpisce che si leggono anche stavolta, come era stato a Parigi, notizie di singoli attentatori che erano già noti alle forze di polizia, che erano stati addirittura anche in alcuni casi fermati e poi rilasciati. Insomma, che non si tratta di persone del tutto nuove all'intelligence. E questo in qualche modo lascia... Bisogna vedere queste persone a chi erano note. E se questi profili, diciamo, soggettivi di interesse investigativo sono stati fatti circolare, nessuno può tenersi le informazioni per sé, nessuno può fare da solo niente, mentre se si fa lavoro di squadra e lavoro coordinato si può ottenere il risultato in termini di prevenzione e se necessario anche di repressione. Chi sono i paesi che maggiormente sono più gelosi, diciamo così? No, guardi, è un po'... bisogna fondare la cultura del coordinamento e della condivisione delle informazioni. Noi italiani ce l'abbiamo, non tutti gli altri paesi ce l'hanno nello stesso grado nostro. Forse noi ce l'abbiamo anche alla luce della nostra tragica storia, certamente, diciamo. Certamente, ma soprattutto per questo. La gente non riesce a capire come mai ancora non ci sia, come sia possibile che non ci sia questa condivisione di informazioni nonostante i ripetuti attentati che ci siano stati in Europa. Si può fare molto di più. Noi disponiamo di informazioni, disponiamo di banche dati. Dobbiamo rendere disponibili per tutti i soggetti che sono chiamati a investigare i dati di cui siamo in possesso. Nell'era del terrorismo si pone pure il tema di quanta della nostra privacy siamo disposti a cedere. Si pone innanzitutto con la questione del PNR, il database dei passeggeri dei voli con i nostri spostamenti, riproposto dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Sta roba del PNR non può diventare la telenovela europea. Noi abbiamo sempre sostenuto questa vicenda, il Parlamento europeo a tutela della privacy ha frenato, dopo il Bataclan ha accelerato e quindi credo che sia arrivato il momento buono. L'Italia, come si dice in questi casi, i suoi compiti a casa li ha fatti, introducendo ora pure una banca dati del DNA. Ma in tema di terrorismo l'azione del singolo paese resta di fatto inutile se non condivisa, concorda Nicola Piacenti, magistrato italiano al Comitato Permanente di Esperti del Terrorismo al Consiglio d'Europa, oltre che procuratore di Como. La sollecitazione più significativa è stata la criminalizzazione del viaggio verso scenari problematici, scenari di guerra. Ha previsto la criminalizzazione della partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo, la criminalizzazione dell'addestramento passivo. In più, al momento è in cantiere una modifica in materia di utilizzo delle speciali tecniche di indagine. Tutto questo però ha a che fare sempre con la repressione. Il problema che sta emergendo in questi casi di terrorismo è quello che ci dovrebbe essere prima, cioè è la prevenzione. Non pensa che da questo punto di vista l'Europa sia abbastanza indietro? La criminalizzazione del viaggio, la criminalizzazione del reclutamento per il compimento di un atto di terrorismo, come c'è in Italia, la criminalizzazione dell'addestramento e prevenzione dell'atto di terrorismo. Quindi non si aspetta che l'atto di terrorismo venga compiuto, ma si criminalizzano delle condotte prodromiche. Ci sono le normative, ma poi il problema è il cuore, restano lettera morta se non vengono applicate. Gli Stati devono necessariamente fare i conti tra un'esigenza di ordine pubblico, di sicurezza interna e di tutela a questo punto della vita, dell'incolumità dei loro cittadini residenti rispetto a una conseguente compressione dei diritti individuali. Negli Stati Uniti con la legge del Patriot Act sono stati intercettati milioni di cittadini. Forse si dovrebbe aprire una riflessione interna quanto delle proprie libertà individuali è possibile in qualche maniera sacrificare a fronte di una minaccia terroristica, quindi di una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alla vita dei cittadini. È ora di introdurre un Patriot Act anche in Europa? No, non dico assolutamente questo. È ora che attraverso dei sistemi di garanzia come le intercettazioni preventive, per esempio all'espulsione dei non cittadini che diventino sotto il profilo del terrorismo pericolosi, vengano effettivamente adottate. Patriot Act moderato in salsa europea con le garanzie europee. Sull'intelligence dunque poggia la parte principale della lotta al terrorismo e di storie di spie 007 è pieno anche il mito. Linea allora come sempre a questo punto alle mitiche storiacce e a Giorgio Iorano, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. I primi a spiarsi fra loro furono i greci e i troiani e Omero nell'Odissea a raccontarci la missione spionistica di Ulisse. L'eroe greco si era travestito da mendicante, si era coperto di stracci, si era pure ferito da solo per risultare più credibile. Così conciato si era infiltrato nella città di Troia. Nessuno lo aveva riconosciuto, solo Elena aveva capito chi era, ma lo aveva lasciato andare. E Ulisse era tornato nel campo greco, racconta Omero, portando molte notizie. Insomma, quello della spia forse non è il mestiere più antico del mondo, ma di sicuro è uno dei più antichi. Tanto che un grande storico, Chester Starr, anni fa scrisse un libretto intitolato Lo spionaggio politico, Political Intelligence, nella Grecia classica. In Italia lo ha tradotto Sellerio e forse lo si trova ancora da qualche parte. Chiunque viaggiasse per lavoro poteva essere usato per raccogliere informazioni su potenze straniere. I mercanti innanzitutto, ma anche gli attori o i poeti. Nell'interesse del proprio paese si agiva senza scrupoli. Sempre Ulisse, secondo Omero, intercettò una volta una spia troiana, Dolone, che cercava di infiltrarsi nel campo greco. Il povero Dolone fu sequestrato e messo sotto torchio. Ulisse gli estorse tutte le notizie possibili. Il troiano credeva di salvarsi la vita, ma Ulisse lo raggelò. Sì, ci hai dato notizie preziose, però se ti lasciassi vivere potresti tornare a spiarci. Dette queste parole, e sono versi autentici di Omero, Ulisse sgozzò la spia. E voi, quanta parte della vostra privacy e delle vostre libertà sareste disposti a cedere in nome della sicurezza? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce, oppure ci trovate anche sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti e auguri di buona Pasqua.